Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi ancora insieme. Buon sabato, parliamo di sfide educative, di relazione genitori e figli e come tutti sabato qui in studio con me c'è Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, il tema di oggi è un tema che apparentemente molti di noi ritengono lontano dalla propria vita e invece ci riguarda tutti in prima persona, anche se magari non lo ospitiamo nella nostra casa oppure non c'è nella classe di nostro figlio. Ma statene certi, cari amici, c'è di sicuro nella sua scuola. Sto parlando dell'autismo, Alberto. Proprio questa settimana, curata dal Centro Studi Erickson, si è tenuto il più grande convegno italiano sul tema, con un titolo che direi fa anche al caso del nostro programma, Autismi, dai bambini agli adulti, dalla famiglia alla società. E noi abbiamo ai nostri microfoni le due figure chiave della direzione scientifica di questo convegno, il professor Dario Ianes. Buongiorno professore. Buongiorno. È presidente del corso di laurea in scienze della formazione primaria dell'Università di Bolzano. E abbiamo anche in linea il professor Michele Zappella. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a voi. Neuropsichiatra infantile, direttore scientifico della rivista Autismo e Disturbi dello Sviluppo, edizione Erickson. Allora, io chiederei ai nostri ospiti, Alberto, prima di raccontare quello che è emerso da questo importante convegno, di ascoltare insieme la lettera che è arrivata alla nostra redazione e che ci ha convinto ad affrontare il tema di oggi. Il nostro bambino Paolo è affetto da autismo. Il suo inserimento nella scuola primaria è stato davvero difficile. Marco ha problemi a socializzare, come facile presumere, e spesso fa rumore e disturba. Questo ha scatenato la reazione di molti genitori che vorrebbero vederlo fuori dalla classe dei loro figli, che risultano, secondo loro, fortemente infastiditi dalla presenza di Paolo tra i loro banchi di scuola. Quando vado a prenderlo mi sento osservata e spesso commentata dagli altri genitori. Pochi sono davvero solidali. Così a problema si aggiunge problema. Credetemi, mi sento stanca e sfiduciata. Non potete usare il vostro programma per far capire che i nostri bambini possono anche essere una risorsa per un gruppo e che non è giusto che chi nasce con questo problema debba sentirsi così discriminato da chi gli vive a fianco. Se volete parlarne con noi, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Abbiamo oggi Valeria Bernardi in redazione e Giorgio De Luca in redazione assistenza. Professor Ianes, questa lettera ci ha colpito molto, ma davvero ancora ci sono genitori di bambini autistici che devono camminare, mi lasci usare questo termine, un po' a testa bassa quando arrivano a scuola, perché lo sguardo degli altri genitori, degli adulti in genere, li mette in difficoltà? Beh sì, purtroppo ce ne sono ancora, però devo dire sempre meno e credo abbiano questi genitori, come dire, sempre più motivi per invece camminare a testa alta, perché sempre di più ormai la ricerca ha dimostrato che non sono i genitori la causa, per cui non possono mortificarsi per questo. E poi possono essere, e molto spesso lo sono, noi lo vediamo veramente sempre di più, alleati importanti per la scuola, per costruire insieme con gli insegnanti un intervento educativo serio e efficace nei confronti di questi problemi, per cui non hanno veramente alcun motivo di camminare a testa bassa, anzi. Professor Zappella, ma il problema sta più nelle famiglie che non hanno ancora le conoscenze adeguate o le risorse sufficienti per facilitare e presidiare il processo di integrazione dei propri bambini, o è soprattutto nelle scuole, nel corpo docente, nel mondo degli insegnanti che ancora non sono pronti o preparati per questo compito? Ma senta, il problema è probabilmente questo. La grande risorsa educativa rappresentata da un bambino o da un ragazzo con un disturbo autistico in classe è che questa è un'occasione per creare di questa classe una sorta di comunità solidale, cioè per creare un rapporto di solidarietà e di amicizia che a sua volta si raggiunge se le persone di questa comunità riescono a definire l'altra persona, in questo caso il ragazzo con un disturbo autistico, sia per le sue virtù che, se, diciamo che per i suoi aspetti difficili. E allora questo è un po' il contrario della cultura consumista, che punta invece sempre a fare, a ottenere risultati. Probabilmente è la cultura consumista che è nemica dell'inserimento reale e solidale dei bambini con disturbo autistico, e forse la inimicizia principale, come dice questa lettera che è molto commovente, è proprio in alcuni genitori che hanno questo tipo di mentalità, forse più ancora che negli insegnanti. Allora Alberto, ai nostri ascoltatori anche questo sabato chiediamo di intervenire, aiutateci a capire cosa avete imparato dal contatto, dalla conoscenza, dall'amicizia con una persona affetta da sindrome dello spettro autistico, perché è stata importante nella nostra vita, riprendendo appunto il messaggio, lo stimolo, la riflessione che ci suggeriva il professor Zappella. Sì, cerchiamo di fare di questa trasmissione una testimonianza condivisa di civiltà e integrazione. Mandateci vostri sms al 349-238-6666. Sceglieremo uno dei vostri messaggi, quello che magari ci ha toccato di più, e il messaggio riceverà, in collaborazione con IBS, il kit con DVD e CD-ROM curato proprio tra l'altro dai nostri due ospiti, il professor Janes e Zappella. Si intitola Facciamo il punto sull'autismo, è pubblicato dal Centro Studi Erickson, racconta in modo molto approfondito ma anche molto semplice, comprensibile questo tema. Scriveteci cosa abbiamo imparato dal convivere o dall'avere nel nostro condominio, nella nostra classe, una persona soggetta affetta da autismo. In linea con noi, tra l'altro, abbiamo Gaia Raineri. Buongiorno Gaia. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Gaia, lo scorso anno ha pubblicato per Einaudi un bellissimo romanzo, si intitola Pulce non c'è. Ha molto a che fare col tema di oggi, ma le chiederemo chi è Pulce. Pulce qualche volta piange, ma non sa dire che è triste. Anzi, a volte sembra che non sappia nemmeno piangere, perché lo fa in un modo che non le scendono le lacrime, ma le piange solo la faccia. È difficile da spiegare. Comunque non è molto importante, perché Pulce piange poco. Pulce non sa parlare, e per scrivere usa un metodo che si chiama comunicazione facilitata. E funziona così. Tu prendi un bambino autistico, lo fai sedere davanti a un computer, lo tocchi, e come per magia gli dai sicurezza. Così lui scrive tutto quello che per tutta la vita si è sempre tenuto dentro. Gaia, questo è proprio un breve estratto del tuo romanzo molto bello, che ha creato un ampio dibattito. Gaia, ci aiuti a capire che cosa significa essere sorella di Pulce? Quello che io ho tentato di rendere un po' con il mio romanzo era una cosa molto particolare che succede ai fratelli di persone disabili e di autistici in particolare, rispetto invece a quanto accade ai genitori. E cioè io credo che si possa parlare di accettazione totale. E nel mio romanzo Giovanna, che è la voce narrante, prende Pulce davvero come un dato di fatto, e questo le permette anche di raccontare la sua storia, alla quale tra l'altro, oltre l'autismo, che è già una grossa narrazione in sé, si aggiunge anche un grosso errore giudiziario, le permette di raccontarla con una certa leggerezza, con una certa ironia, diciamo. Nonostante questo, io credo che essere fratelli di una persona disabile sia una cosa per nulla facile, ed è soprattutto un problema, credo, veramente ancora molto inesplorato. Io così un po' provocatoriamente dico sempre che a noi fratelli la psicoterapia dovrebbero offrircela gratis e obbligatoria. Però ecco, quello che io penso è che diciamo, per come è strutturata oggi l'assistenza alle persone disabili, credo che sappiamo tutti che la risorsa fondamentale continua ad essere la famiglia, e questo fa sì che molto spesso il fratello sano, per mancanza di forze proprio, si ritrovi ad essere un po' il terzo genitore del fratello disabile. E quindi credo che sviluppiamo anche un po' un'incapacità di pensare a noi stessi in virtù del fatto che siamo stati proprio cresciuti essendo abituati a pensare a qualcun altro, a preoccuparci di qualcun altro, anche proprio in modo oblativo, sacrificando la nostra vita, e tutti con il gigantesco punto interrogativo del che cosa succederà dopo, cioè quando i nostri genitori non ci saranno più. Non lo so, io mi chiedo, magari è il caso che io faccia dei figli, perché poi potrei, come dire, in un certo senso essere costretta dagli eventi ad essere madre di mia sorella, e questo è un problema veramente drammatico, in cui io credo che la cosa che si avverte di più sia proprio una grande solitudine da parte nostra. Professor Zappella, io vorrei un suo commento al racconto e alla riflessione toccante di Gaia. Senta, la Gaia ha dato un contributo importante, e quello che ha appena detto è uno dei punti chiave del suo libro, cioè il mondo familiare nel quale vive una persona con un disturbo autistico ne è profondamente coinvolto a vari livelli. Lei ha detto, dice, avremo diritto ad avere una psicoterapia. Forse più generalmente si può dire avremo diritto ad un po' d'attenzione. È importante che fratelli e sorelle abbiano un po' d'attenzione da chi, diciamo, si occupa in prevalenza del fratello o della sorella con un disturbo autistico, perché praticamente sono persone che spesso si coinvolgono profondamente, a volte può darsi che debbano essere aiutati, comunque hanno bisogno di un interlocutore. Questo mi sembrava che fosse il messaggio che veniva da Gaia Ranieri. Andiamo a Torino, c'è Giorgio, 800 24 0024, benvenuto Giorgio, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Siamo qua. Io ho un problema del genere, Diciamo che ho mio figlio che va in una scuola privata dove all'interno c'è un bambino che ha queste sintomatologie. E sostanzialmente batte la testa contro il muro, i pugni continuativamente, disturbando l'ascolto delle lezioni. Purtroppo lì tutti quanti ci stiamo lamentando, dicendo che questo bambino ci dispiace, ma dovrebbe essere assistito da un personale addetto, apposito, per poter essere seguito un pochettino meglio e fare in modo che non disturbi gli altri e le lezioni che praticamente dovrebbero seguire. E ci è stato detto che comunque non è possibile, perché questo bambino deve essere integrato e ha bisogno anche di stare nella classe con gli altri. Per carità, noi non discriminiamo assolutamente questa cosa, ma penso che sia l'istituzione che, facendo così, lo sta discriminando, anche perché non c'è nessuno che lo segue. Ecco, il problema che racconta Giorgio è molto vicino al problema che abbiamo ascoltato anche nella lettera. Il professor Janes, che credo in Italia sia il massimo specialista di integrazione, che genere di risposta può dare a questa riflessione di Giorgio? A cui la scuola deve un po' attrezzarsi. Da questo punto di vista è chiaro che la scuola è il contesto normale, ideale, in cui tutti i bimbi dovrebbero crescere, però chiaramente un bimbo che ha un problema in più, un bisogno in più, ha bisogno di qualcosa in più, per cui accanto alla normalità che accoglie, insomma, allo stare con gli altri, perché questo è il valore fondamentale, accanto a questo però una risposta di tipo tecnico, un intervento tecnico che ormai è assolutamente, come dire, disponibile e necessario, lo vada fatto. Ma professor Janes, concretamente i genitori che cosa possono chiedere alla scuola? Possono chiedere alla scuola che quelle competenze tecniche che sono disponibili nei servizi sanitari, ad esempio, o anche in esperti delle stesse associazioni, che molto spesso hanno degli esperti, dei consulenti al loro interno, formino gli insegnanti e intervengano direttamente nella scuola. Allora il risultato educativo è assolutamente a portata di mano, anche in situazioni complesse come quella che ha descritto l'ascoltatore di prima. Gaia, i nostri ascoltatori non lo sanno, ma tu dall'Italia poi ti sei mossa, hai vissuto anche in altri contesti europei. Da osservatrice, essendo tu la familiare, la sorella di una persona che ha una diagnosi di autismo, nelle altre nazioni che genere di sensibilità o che differenze riscontri rispetto a quello che hai visto nella tua famiglia e sulla tua pelle in Italia? Ma ecco, io forse non conosco così bene le realtà europee in cui pure ho vissuto, però diciamo che uscire dall'Italia mi è servito a fare una riflessione sull'Italia, però vista così un po' dall'esterno, un po' dalla luna. E non so, a me è venuto un po' il sospetto che l'Italia faccia un grandissimo vanto il fatto di aver chiuso le scuole speciali, cosa ovviamente giustissima, che ha le sue basi scientifiche inconfutabili, diciamo, e che però si punti tutto sull'integrazione, mentre molto spesso, io ho visto sulla mia pelle, sarebbe forse meglio parlare di coesistenza sotto lo stesso tetto o di giusta posizione. E poi ci si scontra, diciamo appunto, con la mancanza di personale di cui si parlava prima, che fa sì che secondo me diventi un po' tutto affidato alla sensibilità del singolo. Oltretutto l'autismo è una patologia che non ci si trova quasi mai a dover studiare, anche quando si fa una carriera come dire, per diventare insegnante di sostegno o psichiatra. È una cosa che è ancora molto affidata, diciamo, alla curiosità personale, e quindi la stranezza è che i genitori molto spesso devono andare a spiegare alle persone che devono occuparsi dei loro figli come devono farle, e poi succedono delle cose drammatiche, nel senso che per esempio la mia famiglia ha dovuto fare il giro di molte scuole prima che accettassero di avere mia sorella Pulce, appunto, da loro, e addirittura commentavano: vabbè, ma voi sapete quanto ci verrebbe a costare? Però ovviamente questa non può essere una preparazione, una responsabilità, certo, della famiglia, perché se sapessero loro quanto costa alla famiglia avere un disabile totalmente a carico, a proprio carico, sì, assolutamente. Poi ci sono, non lo so, su quello che diceva prima il signore di Torino, io ho delle perplessità, nel senso che proprio nel paese dove adesso Pulce e la mia famiglia vivono era stato tristemente famoso un assessore comunale che aveva dichiarato che i disabili mentali non hanno nulla a che vedere con l'istruzione. Ecco, a me pare che di questi tempi sia più che altro certa istruzione che non ha nulla a che fare con i disabili. Cioè, io credo che davvero ci dovrebbe essere un'insurrezione popolare di fronte al... quando si scopre che c'è un ragazzo che è lasciato a prendere testate al muro, perché io credo che non esista nessun disabile che sia così grave da non essere in grado di imparare. Quello che può imparare non saranno sicuramente le stesse cose che imparano i compagni, o almeno non le stesse, magari impara anche solo a togliersi il maglione, magari ci mette un anno per imparare, però io credo che per esempio i compagni normodotati invece avrebbero un universo gigantesco che potrebbero... E che sia una pessima lezione, Gaia, per un bambino vedere che la scuola e gli adulti lasciano il compagno disabile sbattere la testa contro il muro. Enrico da Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io sono Enrico Fantaguzzi di Rimini Autismo, e sono già stato vostro ospite in un'altra trasmissione ormai qualche anno fa. Siamo amici, Enrico. Io volevo parlare un po' di quello che sta succedendo a Rimini. Noi siamo un'associazione di Rimini, e a Rimini devo dire che c'è un buon livello di integrazione con le istituzioni, e io credo che questo sia una cosa importante. Non dico che qua è una terra, un'isola felice, perché abbiamo tutti i nostri problemi, ma credo che la possibilità di far interagire tutte le persone che intervengono sul bambino e fare un programma comune nella giornata del bambino per raggiungere gli stessi obiettivi è una cosa molto importante. Così come è molto importante far capire ai genitori dei compagni di classe quanto può dare un bambino autistico ai loro bambini. Questo fatto non è un fatto molto complesso, nel senso che spesso non sono i compagni di classe che lasciano da solo il bambino, anzi il bambino con autismo intendo, anzi sì. I compagni di classe normalmente dimostrano di voler di voler avere dei rapporti anche più intensi, ma le famiglie sono molto spaventate. Enrico, ecco, allora lì bisogna lavorare. Io la ringrazio del suo intervento, devo salutarla. Gaia, io so che tu devi andare via, ma proprio così io vorrei che tu ci lasciassi con un messaggio ai genitori all'ascolto, che cosa che rispecchia un po' la tua esperienza e quanto tu ci hai detto in trasmissione, quindi questa attenzione, anche questa fatica, questo ruolo difficile ma così prezioso dei fratelli delle persone disabili. Sì, ma io in vita mia non ho conosciuto quasi mai qualcuno più combattivo dei genitori di persone disabili, perché sono così un po' costrette dagli eventi a diventarlo. E a volte però subentra una certa timidezza o scoraggiamento, diciamo, nella lotta per le proprie rivendicazioni. Però ecco, io consiglierei assolutamente a tutti di lasciare che non si spenga l'attenzione intorno al tema, di rivendicare veramente con tutti i mezzi i propri diritti, perché è già vergognoso che debbano farlo gli stessi genitori e che non ci abbia già pensato la società, che invece dovrebbe avere come obiettivo proprio quello di prendersi prima di tutto cura dei più deboli. Quindi ecco, di non mollare. Grazie Gaia, un abbraccio. Grazie a voi, buona giornata. Professor Zappella, stiamo parlando di autismo, ma il titolo del vostro convegno mi suggerisce di farle una domanda e di chiederle una precisazione. Il vostro convegno si intitolava infatti Autismi, un plurale che ha molti significati, quindi ogni storia di autismo è una storia a sé, ma anche la stessa malattia ha talmente tanti modi di manifestarsi che non se ne può parlare al singolare. È così, professore? Senta, si tratta di diverse malattie. E questa è la novità che è, diciamo, emersa negli ultimissimi anni. Sono numerose differenti malattie che probabilmente richiedono anche, per essere affrontate bene, degli approcci più specifici. Alcune le conosciamo già bene, altre ancora non le conosciamo, e quindi questo è uno dei problemi. Sono diverse malattie che hanno un denominatore comune. Il denominatore comune è una difficoltà grave nella relazione e nella comunicazione e modalità molto ripetitive. Devo dire che autismo serve anche a dire un'altra cosa. C'è uno stereotipo dell'autismo che generalmente è molto deteriore. In realtà le cose sono molto diverse. Ci sono persone con disturbi autistici che sono accompagnati anche da un ritardo grave, altri che sono di normale intelligenza. Va sottolineato che il 30% dei soggetti autistici ha generalmente un particolare talento, che a volte è anche spiccato e a volte è anche di ottimo livello. Ecco, questo è molto importante che le persone lo sappiano, perché sennò lo stereotipo è di un personaggio che si allontana completamente dagli altri, che non parla. Questo può anche essere vero, ma riguarda una percentuale limitata di persone. E proprio a proposito di forme molto diverse, una di queste forme è la sindrome di Asperger. In linea con noi abbiamo un genitore, si chiama Ugo, ma è anche chiamato Gnomo Aspirino. Ci aveva scritto alcune settimane fa, l'abbiamo tenuto proprio da parte per questa puntata. Buongiorno Ugo. Buongiorno a voi, buon sabato a tutti. Benvenuto. Ci racconta chi è Ugo nella vita e perché a volte si trasforma nello Gnomo Aspirino? Allora, io nella vita reale, oltre a essere un papà di un ragazzo di 13 anni con sindrome di Asperger, sono un sottufficiale della Marina Militare, vivo a Torino e lavoro a Genova. Ovviamente il mare a Torino, certo, non c'è. Nel mondo fatato invece sì, mi sono creato questa figura di Gnomo Aspirino che vive in Irlanda e per vari motivi che spesso racconto nelle mie fiabe ai bambini, vengo in visita in Italia accompagnato dai miei due folletti, che poi sono Chiara Cadabra e Fabidù, che sono i miei figli. Beh, all'interno di questi vari contesti in cui vengo invitato e mi propongo come Gnomo Aspirino, colgo l'occasione di far conoscere a più persone possibile la sindrome di Asperger. L'idea dello gnomo nasce dall'idea che provavo e provo tuttora molto forte, sia di fare informazione su questo disagio e soprattutto di riuscire a essere presente là dove i genitori hanno i loro primi dubbi, e io qui parlo anche per esperienza personale, cioè là dove il genitore si chiede, papà o mamma si chiedono, ma mio figlio è normale? E davanti a questa domanda, credetemi, questa domanda è deleteria, perché Spesso quando il genitore si fa questa domanda, la società e le persone più vicine a questi genitori, che possono essere amici, colleghi, parenti, che in genere tendenzialmente giudicano ma non ascoltano mai, per queste persone il genitore passa per essere un genitore ansioso, un genitore inesperto che vizia il figlio e non è in grado di dargli una giusta educazione, cosa che è completamente sbagliata questa. Tra l'altro poi gli stessi bambini, gli stessi figli passano poi per la società a essere bambini scomodi da gestire e comunque inadeguati alla comoda normalità sociale che la nostra società ci impone. Professor Iannes, lei può dare un commento? Io all'esperienza, a quanto ci racconta Don Gnomo Aspirino. Certo, io ricordo proprio un'esperienza del convegno raccontata di un ragazzo con la sindrome di Asperger che studia all'università, per cui molto bravo in matematica, fa matematica, però si trova a vivere fuori casa in un collegio con quelle situazioni sociali abbastanza difficili da decodificare, per cui non riesce ad affrontare questo, è brillante negli studi ma non riesce ad affrontare questi e parla ad alta voce, continua a rimuginare queste cose, compagni di collegio, insomma, sono in difficoltà. Allora, come dire, è stato costruito un intervento interessante di aiutarlo a scrivere le cose che gli creavano delle difficoltà nei rapporti sociali e alla fine settimana discuterli col padre, che era molto contento di acquisire questo ruolo, diciamo, di consulente relazionale sociale del figlio, per cui al venerdì quando rientrava c'era questo momento di raccolta, diciamo, delle sue difficoltà per aiutarlo proprio scrivendo e dettagliando le varie cose, perché queste persone con sindrome di Asperger hanno bisogno proprio di studiare, di costruire anche proprio la dinamica e la grammatica dei rapporti sociali. Questo è andato benissimo. E quindi è un'esperienza assolutamente positiva? Di integrazione a livello universitario, certo. Insomma, dove le cose non sono sempre facili. Lorena ci chiama da Treviso, buongiorno. Buongiorno, sono Lorena, ho 43 anni. Chiamo da Treviso, sono la mamma di un bambino che il mese prossimo farà 3 anni, al quale hanno diagnosticato un disturbo psicorelazionale. Sì. Per cui stiamo iniziando adesso questo percorso estremamente difficile, dove non si trovano molti aiuti, nel senso che anche a Treviso, dove esiste un centro anche molto, molto noto con varie sedi anche in tutta Italia, ci sono delle liste di attesa veramente lunghe. Interminabili. Sì, mi sono rivolta anche a un altro centro che è vicino a Treviso, e anche lì è la stessa cosa. Per cui però, parlando con i psicologi, dicono: il bambino è piccolo, è giusto prenderlo, vi siete stati bravi, vi siete accorti, è giusto prenderlo più presto perché un bambino così piccolo deve avere la precedenza. Però al momento è tutto fermo. Niente. Sì, e la cosa è abbastanza demoralizzante, perché da 6 mesi io vedo che il bambino cresce e diventa sempre più forte e anche più difficile da gestire, ha fissazioni, vuole fare le cose tante volte, cioè non parla, per cui diventa anche difficile capirlo, si fa capire a gesti, in altri modi. Poi io ovviamente lo capisco, chi vive è certo, la mamma che famiglia, lo capisce e tutto, però poi ci si rende conto che poi quando è fuori vedi tuo figlio in un contesto sì, che è diverso rispetto agli altri, eccetera. Ecco, comunque quello che vi voglio lamentare sono queste liste d'attesa, questa immobilità che c'è nelle strutture. Professor Zappella, su questo aspetto bisognerebbe fare una puntata. Noi abbiamo un minuto, meno 30 secondi, davvero poco, ma dia una risposta, un'indicazione a Lorena e alle persone che si ritrovano nella sua situazione, non sono poche. Ma il punto è un pochino questo, la singola ASL e più ancora la regione dovrebbero valutare che scelte fare rispetto agli interventi terapeutici nei disturbi autistici, e mi spiego meglio. In questo momento c'è una linea di tendenza, per esempio, per fare degli interventi intensivi fatti sì. da personale terapeutico specializzato. Se si segue questa strada, beh, si rischia di avere una situazione del tipo che descrive la signora. Cioè, a un certo punto quindi, professore, ecco, professore, lo so, ma io devo chiudere. Mi dia un'indicazione. Allora, l'indicazione è di dare la precedenza all'intervento precoce. All'intervento precoce. Che è molto importante. Abbiamo scelto tra i molti vostri sms questo: da ragazzo alle medie ho avuto un ragazzo autistico in classe, devo ammettere che non fu facile, ma a posteriori ha rappresentato l'altro da noi, sicuramente educativo e illuminante. Per oggi è tutto, vi ringrazio, un saluto da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.